Benvenuti all'ottavo episodio di La casa del ciliegio. Oggi parleremo di come la mindfulness possa aiutarci a gestire il dolore, sia fisico che emotivo. Il dolore è una parte inevitabile della vita, ma con la mindfulness possiamo imparare a vivere con esso in modo diverso. Partiamo dal fatto nel dire che il dolore è una risposta naturale del nostro corpo a lesioni o malattie, ma spesso la nostra reazione mentale al dolore può essere più intensa del dolore stesso. Ci preoccupiamo del dolore futuro, lo temiamo e questo crea più sofferenza. La mindfulness ci aiuta a osservare il dolore senza identificarsi con esso. Ci tengo a precisare che la mindfulness non elimina il dolore, ma cambia la nostra relazione con esso. Ci insegna a osservare il dolore senza giudicarlo, senza amplificarlo mentalmente. Invece di resistere, impariamo ad accogliere il dolore con una mente aperta, riducendo la sofferenza che accompagna la nostra reazione emotiva. Una tecnica che può essere molto utile è il body scan, che ci aiuta a portare l'attenzione nelle diverse aree del corpo, anche quelle dolorose, per imparare a non reagire con resistenza. Un'altra tecnica è la respirazione consapevole, che ci aiuta a rilassare il corpo e la mente durante il dolore. Infine, se desideri imparare a gestire il dolore in modo più consapevole, ti invito a partecipare ai miei corsi. La mindfulness può davvero cambiare la nostra relazione con il dolore. Nel prossimo episodio esploreremo la mindfulness nei bambini e negli adolescenti e come questa pratica possa aiutarli a crescere in modo equilibrato. Non perdere il prossimo episodio!